Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, ripartiamo proprio dall'Ucraina, visto che ne abbiamo parlato un secondo fa, l'incontro milanese, ASEM, ricordo, vertice, il decimo ormai in 18 anni tra Asia ed Europa, si è dedicato molto anche alla questione invece della crisi militare e politica nell'est dell'Ucraina e dunque alla frontiera con la Russia. Avete sentito qual è il punto di vista di Putin? Pessimista, così è anche purtroppo Angela Merkel, che dice che non ha visto dei passi in avanti proprio da Putin e aggiunge: non ho potuto purtroppo identificare alcuna apertura. Tutto questo è stato il prodotto dell'incontro avvenuto ieri sera, tarda sera a Milano, e poi degli incontri di questa mattina. Ecco, sull'Ucraina, visto che siamo in spazio pienamente europeo, sentiamo il presidente uscente della Commissione Barroso. It was agreed to implement Minsk protocol. Now, three main points. Ecco, tre punti essenziali, dice Barroso nell'intervento fatto circa tre ore fa all'ingresso della fiera a Milano. Dice: i tre punti sono l'applicazione del protocollo di Minsk, che sostanzialmente definisce il cessate il fuoco, la possibilità per le regioni orientali dell'Ucraina e quindi per le regioni separatiste di arrivare a un voto politico rapidamente, e il terzo punto è quello delle frontiere. Questa mattina infatti Renzi in conferenza stampa ha parlato, riprendendo un progetto che era stato lanciato a suo tempo del presidente francese Hollande, la possibilità di utilizzare dei droni, e ha citato Germania, Francia e Italia per assicurare il controllo e l'impermeabilità di fatto della frontiera dell'Ucraina con la Russia. Insomma, sarebbe un grosso passo in avanti, considerando che è proprio da quella frontiera che la Russia ha sistematicamente violato negli ultimi mesi che entrano armi e forze ai separatisti. Staremo a vedere. E ora un altro tema che ci riporta proprio a Ebola. Cristina Carpinelli ci racconta il punto fatto a livello appunto europeo l'altro ieri e ieri a Bruxelles. Sentiamolo. Controllo dei passeggeri in ingresso, controlli all'imbarco e anche la possibilità ventilata che nessun malato di Ebola europeo venga rimpatriato ma curato nei luoghi dove ha contratto il virus. La Germania per questo ha promesso che si prenderà carico della gestione di un centro per il trattamento d'Ebola in costruzione a Monrovia, in Liberia. E di cose su Ebola se ne stanno dicendo e pensando tante, come è accaduto a Bruxelles durante il vertice europeo straordinario sul virus che mette in difficoltà protocolli, leggi, confini. Un virus, come giustamente dirà Ban Ki-moon, segretario generale dell'ONU, che è un enorme problema mondiale e che richiede una risposta globale. Mentre il presidente americano Obama apre alla nomina di un super commissario per l'emergenza, si lavora a una piattaforma per contrastare il virus a livello europeo, e questo emerge dall'incontro dei ministri della sanità. L'Unione Europea procederà immediatamente a una verifica dell'efficacia dei controlli anti-Ebola organizzati negli aeroporti dei tre paesi africani colpiti dall'epidemia, dice il commissario europeo alla sanità Tonio Borg, che stiamo sentendo. Ma se si sono detti tutti d'accordo sul rafforzamento dei voli in uscita dai tre paesi dell'Africa occidentale, i ministri si sono poi ritrovati divisi sulla valutazione dell'opportunità dei controlli in arrivo, come la misurazione della temperatura. Mentre la Repubblica Ceca ha già introdotto questo tipo di screening nei suoi aeroporti e Francia e Regno Unito hanno annunciato che lo faranno nei prossimi giorni, il Belgio, ad esempio, pur avendo linee aeree dirette verso le aree colpite, non ha manifestato l'intenzione di farlo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto, naturalmente Europa 24 in versione notte questa sera, domani l'appuntamento con la rassegna stampa europea, l'Euro Reportage. Noi ci risentiamo lunedì, buon fine settimana. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.